Le sfide da affrontare per il sistema energetico mondiale sono sempre più complesse in uno scenario in cui transizione e sicurezza economica sono prioritarie e interconnesse. La transizione energetica è prima di tutto una transizione tecnologica, che richiede una forte capacità innovativa per avere un mix energetico sempre più decarbonizzato. La serie podcast Energia in Evoluzione ci porta alla scoperta della sfida tecnologica in corso, con approfondimenti e interviste ad esperti. Energia in Evoluzione è un podcast originale di Radio 24, creato per Eni. Oggi vi racconto una storia di integrazione, di emigrazione, di accettazione, di follia, una storia molto particolare che però, come molte storie, parte da un piccolo campetto, nel quale il nostro protagonista, come tanti che poi faranno strada nel mondo del calcio, trascorre le sue giornate, almeno fino a quando può, perché a un certo punto nella vita del nostro protagonista e di tutta l'Europa, ahimè, arriva la guerra, c'è anche la povertà che sta attanagliando il suo paese, e questo ragazzo è costretto ad andare a lavorare in una fabbrica quando è ancora bambino per aiutare in casa. Insomma, inizia così la storia di uno dei calciatori che hanno fatto la storia del calcio. Pochi si ricordano di lui ed è un peccato. Oggi vi raccontiamo Laszlo Kubala, il calciatore che ha vissuto tre volte. La sfida di oggi era già scritta. Da una parte l'Ungheria, dall'altra l'Italia. Kubala, il capitano, si è scelto la sua squadra, interpretando Meazza, uno dei suoi miti. La piccola Ungheria invece era guidata da Franz. Nati nello stesso anno, cresciuti tutti e due nei quartieri operai di Budapest con il calcio nelle vene. Laszlo lo chiama ancora così, Franz, anche se i genitori di etnia tedesca hanno deciso di ungherizzare i loro nomi. Quindi non è più Franz Puszeld, ma Ferenc Puskas, tutti e due bomber, con un'unica differenza. Kubala è destro, Franz mancino. Lorenzo De Alexandris ha raccontato la vita del nostro protagonista in un libro dal titolo Più che un calciatore, l'incredibile storia di Laszlo Kubala. È già più che un calciatore, è un racconto un po' romanzato, ma che non si allontana troppo dalla vera vita di Kubala, che è una vita che è veramente un romanzo. Lui cresce nell'Ungheria degli anni 30, in un periodo storico complesso, ma è un periodo che è anche il migliore di sempre della storia del calcio magiaro. I suoi giocatori e i suoi allenatori, come per esempio Arpad Weiss, sono tra i più moderni e ricercati. La carriera gloriosa di Weiss, peraltro due scudetti vinti col Bologna e uno con l'Inter, non gli basterà per evitare la tragedia, la soluzione finale nel campo di concentramento di Auschwitz. La nazionale ungherese raggiunge la finale dei mondiali nel 1938, verrà battuta dall'Italia di Meazza e Piola. Kubala sogna un giorno di diventare anche lui un campione e di poter giocare in Italia. Il padre lo ha visto crescere come un uomo e calciatore, quasi i due concetti coincidessero. Laszlo, a poco più di 11 anni, ha iniziato a lavorare nella Ganz, la fabbrica di locomotive non lontana da casa, qualche fiorino in più e il calcio a rendere più sopportabili le giornate. Ha sempre dovuto contribuire economicamente in famiglia, perché non bastavano i salari del padre e della madre, casalinga e operaia, in una industria di cartone. Lì ha potuto lavorare e anche giocare a calcio nella squadra della fabbrica, la Mavag Ganz. L'ha tesserato subito, a 15 anni, e l'ha fatto esordire nelle serie minori. Se non ci fosse stata la guerra, la sua carriera sarebbe stata ancora più rapida. E il carattere di Kubala si forgia giorno dopo giorno. È difficile per tutti crescere durante la guerra. Lui è costretto a confrontarsi, insomma, come tutti quei bambini di allora, con qualcosa di più grande di lui, però però lui dimostra grande personalità, determinazione fuori dal comune per raggiungere i suoi obiettivi. Lui vuole diventare un calciatore, il sogno diventa realtà quando viene tesserato dal Ferencváros, che è la squadra più vincente dell'Ungheria di quegli anni. Laszlo è l'orgoglio dei suoi genitori, sono una coppia di cecoslovacchi che sono arrivati in Ungheria durante la prima guerra mondiale. Lui è solo un ragazzino, insomma, ma si vede già che ha qualità superiore alla media per tutti. Lui è un astro nascente del calcio magiaro e il futuro dell'Ungheria è anche nelle sue mani. Kubala è nato e cresciuto a Budapest durante gli anni della guerra, non ha mai potuto lasciare la capitale, ma da quando diventa un calciatore professionista con la maglia del Ferencváros, quando la guerra finisce, può iniziare a girare e a uscire dai suoi confini, e la prima tappa della sua carriera non è molto lontana da casa, però gli serve per scoprire che fuori dalla sua città esiste un mondo che lui non ha ancora visto. Prima destinazione è proprio la Cecoslovacchia, Bratislava oggi in Slovacchia, è la terra dei suoi genitori, deve giocare contro la squadra di casa, lo Slovan Bratislava. Il risultato finale porta ad una sconfitta a cui il Ferencváros non è abituato. Lo Slovan è forte, anche più di loro. Laszlo alla fine della partita se ne va mestamente sotto la doccia e dopo essersi rivestito attende i compagni seduto sul suo borsone fuori dai cancelli dello stadio. Assorto nei suoi pensieri non si accorge che qualcuno gli si è avvicinato. «Salve, signor Kubala, sono Ferdinand Daucic. Le volevo chiedere se le interessasse venire a giocare nello Slovan il prossimo anno. Le assicuro che finirebbe anche in nazionale con la Cecoslovacchia. I suoi genitori sono slovacchi, giusto? Che ne dice?» Ferdinand Daucic, prima della guerra, è stato uno dei migliori calciatori della storia slovacca. Adesso è uno degli allenatori più stimati, il suo Slovan gioca un calcio che Kubala non ha mai visto, è un calcio rivoluzionario e lui non può credere alle parole del suo allenatore. Per lui giocare con la squadra sarebbe veramente un sogno, però spostarsi da un paese all'altro in quel periodo è difficile, se non impossibile. Ci pensa, ma la sua idea lo tormenta. Lui si sta convincendo che il suo futuro non sarà a Budapest, non sarà al Ferencváros, sarà a Bratislava. Decide di lasciare tutto in compagnia della madre, anche perché la madre nel frattempo è rimasta vedova, e anche per questo motivo lui non resiste al richiamo di Bratislava. Tra lui e Ferdinand Daucic scatta qualcosa, è una amicizia, un legame, forse anche è il padre che lui non ha più, insomma si crea un feeling naturale, i due faranno fatica a separarsi, non si separeranno. Lui vede, oltre che un padre, un esempio da seguire. Insomma, Kubala e la madre partono da Budapest per Bratislava, è l'inizio della seconda vita. Bratislava sorprendentemente sta meglio di Budapest. Il suo corpo di strade e palazzi, pur avendo subito la violenza della guerra, ha resistito di più all'urto del fuoco, delle bombe e dei colpi di artiglieria. La città ha salvato i suoi gioielli ed una parvenza di normalità. Ma tra i gioielli di Bratislava c'è un gioiello in carne e ossa che è stato incaricato di accogliere il giovane Laszlo. Si chiama Anna Viola Daucic, è detta Ibi, è la sorella dell'allenatore dello Slovan, è lei che consegna a Kubala le chiavi dell'appartamento che la società ha garantito al giocatore. Tra i due ci sono 20 anni di differenza, lui ha 19 anni, lei ne ha 41, eppure dopo un corteggiamento molto forte da parte di lui la donna cede alle lusinghe di questo ragazzo. La differenza d'età, insomma, è insolita a quei tempi, lo è in realtà anche ai giorni nostri, soprattutto quando, insomma, è più grande la donna. Ma a loro non importa, Kubala inizia così la sua nuova vita e diventa uno dei giocatori più importanti della squadra di Daucic, una mezzala dalle grandi doti fisiche e tecniche. Lui fa quello che vuole col pallone, calcia bene di destro, di sinistro, segna una partita sì e una no, si guadagna la chiamata della nazionale cecoslovacca, con la quale lui può giocare per via delle origini dei genitori. Però un giorno la sua avventura allo Slovan cambia radicalmente. Fernand Daucic, il suo mentore, il suo allenatore, è anche suo cognato peraltro, gli comunica che non sarà più allenatore della squadra di Bratislava. Per Kubala è una notizia terribile, lui si sente perduto senza il suo amico, il suo mentore. vuole fare un passo indietro, vuole rimettere tutto in discussione. Lui non ci può stare in Cecoslovacchia senza Daucic. Qualcosa sta cambiando. Peraltro, siamo alla fine degli anni 40, la guerra è finita, ma il calcio e la politica sono sempre più mischiati tra loro. L'influenza sovietica ormai è un macigno sulla testa di quei paesi. È nato il patto di Varsavia, la cortina di ferro. Lui fa un passo indietro, torna in Ungheria, pensa che lì le cose potrebbero andare meglio, una mossa coraggiosa che peraltro prevede anche la lontananza da sua moglie Ibi, che rimane a Bratislava. È una scelta purtroppo che si rivelerà infelice. Ora Laszlo è di nuovo a Budapest a preparare una nuova stagione. Ha appena aperto gli occhi, si è voltato cercando sua moglie, sicuro di trovarla accanto a lui, ma il vuoto di quel lato del letto l'ha tristemente riportato con i piedi per terra. Quando vede la lettera firmata da Ibi sul retro, non pensa ad altro che leggerla tutta d'un fiato. Si commuove leggendo che Ibi ha in mente di venire con lui in Ungheria non prima di 9 mesi. Gli sembra di volare leggero, ogni desiderio si sta esaudendo. Si dimentica quasi dell'altra lettera che ha ricevuto. Distrattamente la apre, disinteressandosi addirittura del mittente. Ne legge qualche frase mentre cammina verso il Danubio. Arruolamento, Legione Rossa, esercito, divieto di lasciare il paese. L'Ungheria che Kubala conosceva non c'è più e lui non si è accorto di nulla, un po' per la lontananza, un po' perché il cambiamento è avvenuto, magari gradualmente ma inesorabilmente, e scopre che la sua scelta di tornare a casa si è rivelata una trappola. Davanti a lui ci sono 3 anni di servizio militare, 3 anni che rischiano di compromettere per sempre la vita che aveva così tanto sognato. A Budapest gioca molto bene con la maglia del Vasas e si merita anche una chiamata in nazionale, questa volta nella nazionale ungherese. È ancora giovane ma è già un calciatore in ascesa, non può fermarsi proprio quando le cose stanno iniziando a andare secondo i suoi sogni. Nel frattempo è nato il suo primogenito Branko, è un motivo ulteriore per progettare una fuga che ha dell'incredibile. Kubala si fa assegnare ai corpi della Legione Rossa, che sono i più vicini al confine austriaco. L'obiettivo è attendere il momento propizio per lasciare il paese e ricominciare ancora una volta tutto da capo. 30 gennaio 1949, ore 23. Un'anonima zona di frontiera, Kubala si stacca dal gruppo di guardia per dirigersi nell'area dove ha appuntamento con la sua guida. Il buio pesto lo avvolge, ma nonostante tutto sa precisamente dove deve andare. Rallenta il passo, vuole essere sicuro che non ci siano sovietici o altri soldati ungheresi. Quando sente il rumore di un camion e di una marmitta che scarica fumo nero sopra gli alberi, prova all'inconscia sicurezza che lì ci sia il mezzo che lo porterà fuori dall'Ungheria. C'è anche il suo uomo, la guida, a cui ha dato tutti quei fiorini. È lui a iniziare a distribuire le uniformi sovietiche in modo da attirare meno l'attenzione in caso di controlli ad un posto di guardia. Non sanno quando passeranno il confine, forse lo hanno già fatto. Non possono fermarsi subito in Austria, la prima zona dopo l'Ungheria è sotto il controllo sovietico. Devono dirigersi verso il Tirolo occidentale, dall'altra parte del paese, occupato dai francesi. Lì solamente potranno dirsi al sicuro. La fuga di Kubala dall'Ungheria riesce, miracolosamente fila liscia, ha corso un rischio terribile, è il travestimento da soldato sovietico, è stato provvidenziale, è riuscito ad arrivare in Austria, rimane lì per qualche giorno, ma vuole spostarsi ancora, la meta del suo viaggio è l'Italia. Perché l'Italia? Perché l'Italia è il paese dove gioca il grande Torino di Valentino Mazzola e lui con la maglia della Cecoslovacchia ha già giocato una partita contro l'Italia a Bari. E in quell'occasione ha potuto ammirare gli straordinari giocatori granata che formavano praticamente tutta la nazionale azzurra. Insomma, il sogno di Laszlo sta per diventare realtà grazie a un uomo che si spende in prima persona per far giocare un fenomeno del suo livello in Italia. Si chiama Giuseppe Sciarana, è un industriale tessile, è il presidente della Pro Patria, la squadra di Busto Arsizio. La notizia del suo contratto firmato con la Pro Patria oltrepassa i confini italiani e giunge alle orecchie della sua vecchia squadra, il Vasas, che non è neppure a conoscenza di dove fosse finito il suo miglior calciatore, ma anche a quelle dei vertici politici a Budapest. È una reazione a catena. Il Vasas protesta, appellandosi alla FIFA, in quanto, oltre a non aver ricevuto alcun indennizzo per la cessione di un suo tesserato, Kubala ha firmato un contratto mentre ne aveva ancora un altro attivo. Ma non è solo quello a complicare la situazione di Kubala. Ricordiamoci che stiamo parlando di un militare che è scappato di notte, insomma un disertore, così anche il governo ungherese comincia a fare pressioni sulla FIFA che sta cedendo, insomma c'è bisogno di una punizione esemplare. Kubala viene squalificato a vita. Kubala si è pentito di aver scelto la propria, la squadra sì lo ha salvato, ma non gli può garantire di proseguire la sua carriera di calciatore. Il peso della propria si è dimostrato troppo debole per influenzare realmente una federazione dura come quella magiara o addirittura costringere al dietro front il presidente della FIFA. Rimé avrebbe dovuto sopportare le ritorsioni dei vertici sportivi ungheresi, ma per chi? Per un 22enne di Budapest e una piccola squadra di Busto Arsizio, 17esima nel campionato in corso? E allora lui ripensa alle offerte che gli avevano fatto Inter, Juventus, Roma, offerte che lui aveva rifiutato da parte di società che avrebbero avuto sicuramente un peso politico diverso rispetto alla propria. Ma ormai non si può più tornare indietro, c'è rimpianto e anche la sua forma fisica viene condizionata. I giornalisti che lo vedono in tribuna a Busto Arsizio lo descrivono appesantito, lo considerano un ex calciatore che continua a prendere lo stipendio senza fare niente per meritarselo. Proprio sono questi attacchi che feriscono l'Aslo. E nonostante questo, la sua reputazione non ne risente. Un giorno riceve una lettera, la apre e non può credere ai suoi occhi. È stato invitato dal grande Torino a giocare una partita contro il Benfica in programma il 3 maggio 1949. Laszlo Kubala sta per andare incontro veramente a un bivio incredibile. Vedrete come. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo seguendo Laszlo Kubala attraverso le sue peregrinazioni per tutta l'Europa. Lui, figlio di Budapest, quindi che cresce nella capitale ungherese, che insegue il sogno di diventare un grande calciatore, va a cercare fortuna in Cecoslovacchia, poi perde il suo amico come mentore, che era l'allenatore dello Slovan Bratislava, che viene esonerato e quindi torna in Ungheria, scappa dall'Ungheria da militare, quindi diserta, e approda vicino a Milano, a Busto Arsizio, dove c'è la propria che lo inganna. Ma la propria, insomma, è una società senza peso politico, e quindi il risultato finale di tutto questo suo girare per l'Europa è una squalifica a vita. Non gioca in Italia, ma viene riconosciuto come un campione, riceve una chiamata da parte del grande Torino per andare a giocare una partita celebrativa contro il Benfica il 3 maggio 1949 a Lisbona. Kubala naturalmente accetta, poi rinuncia all'ultimo momento per assistere insieme alla moglie il figlio Branko, che si è ammalato qualche giorno prima della partita. È una rinuncia dolorosa, la rinuncia che gli salva la vita. Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della basilica: ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori: è caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto, sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Laszlo Kubala quell'aereo non lo prenderà mai e scamperà così a una fine tragica. La notizia della disgrazia lo sconvolge, la morte di tutti quei campioni, la morte di Valentino Mazzola, per il quale lui aveva una vera e propria venerazione, e rimane nello sconforto più totale. Quasi contemporaneamente a questo evento scopre che il suo vecchio allenatore, il cognato Ferdinand Daucic, è a Roma nel campo profughi di Cinecittà. Continua a non poter giocare con la propria per via della squalifica, e così Kubala parte per Roma assieme alla moglie e al figlio, va alla ricerca di Ferdinand Daucic. Qui inizia una nuova avventura per il protagonista della nostra storia. Sul volto di Daucic si disegna un'espressione sognante ma furba. Si sta preparando a rivelare una possibilità non ancora presa in considerazione da nessuno, e avvicinandosi all'Aslo dice all'improvviso: perché non formiamo una squadra? Quanti ce ne sono di ragazzi, di giocatori che sono fuggiti dalle loro case cercando fortuna in Italia e trovando solamente le porte sbarrate o la tristezza di un campo come questo? Immagina, un tour in estate come quelli che facevamo con lo Slovan. Tutti vorranno giocare con noi contro il grande Kubala e i suoi compagni ungheresi, cecoslovacchi e jugoslavi. Dai, dobbiamo farlo! All'inizio sembra poco più che un'utopia, ma in breve tempo diventa realtà. Daucic e Kubala si mettono in contatto con tanti giocatori slavi che per un motivo o per l'altro sono in Italia ma non possono scendere in campo. Fondano una squadra, la chiameranno Ungaria. È una formazione che si propone per delle partite che assomigliano più a delle esibizioni, quasi come fosse un circo itinerante del calcio con Kubala come attrazione principale. La loro idea però prende vita, trova terreno fertile in un paese che in quegli anni era fuori dalle dinamiche politiche europee, è un paese che sta vivendo un isolamento, un paese che fa il gioco di questa squadra dell'Ungaria, è la Francia del caudillo di Francisco Franco. Kubala arriva in Spagna assieme ai suoi compagni dell'Ungaria, organizzano diverse amichevoli, all'inizio gioca con avversari modesti, poi piano piano gli spagnoli si accorgono che questi ragazzi sanno giocare molto bene al calcio, attirano l'attenzione delle grandi squadre, il livello dell'Ungaria è talmente alto che viene chiamato a esibirsi allo stadio Chamartín di Madrid per sfidare il Real Madrid del presidente Santiago Bernabéu, il leggendario presidente, oggi gli hanno dedicato allo stadio. La prova dei giocatori profughi e soprattutto quella di Kubala attirano l'attenzione del presidentissimo, che sta cercando di riportare il Real a una vittoria che manca dal lontano 1933. Per riportare i blancos in alto, Bernabéu vuole ingaggiare proprio lui, Laszlo Kubala. Santiago Bernabéu vuole Laszlo a tutti i costi, così decide di incontrarlo immediatamente dopo il match da solo in uno dei tanti uffici del nuovo Chamartín. Quando se lo trova davanti, il discorso che Don Santiago fa a Laszlo è semplice e senza giri di parole, anche per le evidenti difficoltà del biondo attaccante dell'Ungheria di comprendere tutti i vocaboli usati da Bernabéu. Quiero que juegue para nosotros. Un calciatore qualsiasi nella situazione in cui si trovava Kubala, una situazione veramente di disperazione, avrebbe accettato senza pensarci due volte. Primo, perché il Real Madrid è una grande squadra. Secondo, perché il presidente Santiago Bernabéu avrebbe usato il suo peso politico, che era molto alto, con la FIFA per fargli togliere la squalifica a vita. Insomma, era una classica domanda alla quale bisognava dire sì. Kubala, però, di fronte all'offerta di Bernabéu, fa una follia, non risponde con un sì o con un no, ma con una richiesta. Accetta solo a patto che Ferdinand Daucic diventi il nuovo allenatore del Real Madrid. A sentire quelle parole, Bernabéu, che non era uno leggero, indica la porta dell'ufficio e invita Kubala a non farsi più vedere da quelle parti. È una follia che gli sta costando cara. Ancora una volta sembra tutto perso per Laszlo, che però non sa che la vita ha ancora in serbo l'ultimo colpo d'ala. Per scoprirlo deve spostarsi in Catalogna, dove c'è l'altra grande del calcio spagnolo, il Barcellona, con le sue maglie blaugrana. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. E ritroviamo Laszlo Kubala, il nostro protagonista, è deluso, è a un tavolino di un bar delle Ramblas a Barcellona. All'improvviso davanti a lui si presenta Josep Samitier, leggenda del Barcellona, membro di un certo peso del club catalano. Si rivolge a Kubala e gli fa la classica offerta che non si può rifiutare: vestire la maglia del Barcellona, accettando anche di assumere Ferdinand Dauci come allenatore dei Blaugrana. Il gesto nobile di Laszlo Kubala, che aveva preferito non mettersi in salvo dalla vita se non facendolo con il suo mentore, il suo cognato, il suo amico Ferdinand, gli viene ripagato all'inizio della sua nuova vita, anche se per ora la squalifica da parte della FIFA è ancora valida. Ora non vuole fuggire, anzi sta affidando la sua carriera nelle mani di Samitier, il quale sta utilizzando tutto il suo peso personale e politico a Barcellona per risolvere la situazione. Tutto questo però sembra non bastare. Serve raggiungere le sfere più alte, bussare alla porta giusta. In quegli anni tutti hanno capito che per cambiare il corso del loro destino il caudillo franco deve essere coinvolto. Samitier lo conosce personalmente, si potrebbero definire addirittura amici, e proprio per questo sa come fare breccia nella mente del generalissimo. Il lavoro diplomatico di Samitier porta i suoi frutti, convince Kubala a farsi battezzare. Lui all'inizio era restio, voleva stare fuori dalle dinamiche politiche, perché in realtà farsi battezzare, prendere la cittadinanza spagnola e poi anche comparire in un film di propaganda voluto dallo stesso Franco, in qualche modo vuol dire prendere una posizione politica, ma lui deve salvarsi. Lui compare in questo film interpretando se stesso nella pellicola Los Ases Buscan la Paz, che racconta della Spagna franchista come luogo ideale per ritrovare la pace. E comunque, insomma, questo compromesso, magari eticamente discutibile per alcuni, è un sacrificio che viene ripagato, perché il 21 aprile del 1951 la squalifica a vita da parte della FIFA verrà annullata. Kubala può ricominciare a giocare a calcio. E tutta questa storia potrebbe far pensare che stiamo parlando di uno che avrà 35-40 anni. Bene, lui alla fine di tutte queste vicissitudini di anni ne ha solo 24 e comincia la sua nuova esistenza col Barcellona. Inizia a segnare a raffica, diventa la stella della squadra assieme a un certo Luisito Suarez, che poi insomma avrà nell'Inter un prosieguo di carriera clamorosamente bello, insomma la grande Inter di Herrera. E le prestazioni di Kubala lo portano alla convocazione nella terza nazionale della sua carriera, la Spagna. Finalmente la storia di Laszlo Kubala sembra aver trovato il suo lieto fine, anche grazie all'intercessione di Santiago Bernabéu, che gli fa un regalo inestimabile. Dopo il suo ritiro, Laszlo è diventato allenatore delle giovanili. Nell'ultimo anno da calciatore, il Barcellona non ha brillato ed è rimasta fuori dalla Coppa dei Campioni. A qualificarsi per la coppa più prestigiosa invece è stato il Real Madrid. Il primo turno vede contrapposti i Blancos al Vasas, la vecchia squadra ungherese in cui giocava Kubala. Don Santiago Bernabéu, al momento del brindisi, prende la parola. «Voglio chiedere un favore ai presenti. Non è per me, né per la mia squadra, ma per il più importante personaggio del nostro club rivale, il Barcellona. Voglio parlarvi di Kubala». Eh sì, Santiago Bernabéu, quel Bernabéu che l'aveva cacciato dall'ufficio ma che in realtà lo stimava, è lui che si pone come tramite per fare rincontrare Kubala e la madre, che lui non vede da tanti anni perché è bloccata a Budapest. Il Vasas accetta, fa pressioni sul ministro degli esteri ungheresi fino a quando non accoglie la richiesta. Insomma, Laszlo può riabbracciare sua madre grazie al più grande rivale del suo club. La carriera di Kubala non finisce col suo ritiro nel 61, perché dopo un anno ci ripensa, ricomincia a giocare all'Espanyol, che è l'altra squadra di Barcellona, scelta che insomma all'inizio non piace molto ai tifosi blaugrana, che però negli anni sanno perdonare il loro campione. La dimostrazione è che viene consegnato a Kubala il premio giocatore del secolo del Barça, e nel Barcellona non è che abbia giocato gente scarsa, lui è il giocatore del secolo. C'è una statua in suo onore che si trova fuori dal Camp Nou. Laszlo, il primo campione della storia blaugrana, il suo ricordo non morirà mai. E dopo il ritiro definitivo, Kubala siederà per più di 30 anni in panchina come allenatore, comincia a girare il mondo. Nel 69 l'ha chiamata nella sua terza casa, che è la Spagna. Deve ricostruire una nazionale di livello che da troppi anni sta fallendo gli obiettivi più importanti. È un lavoro lungo che si chiude nel 1980 dopo due qualificazioni ai mondiali del 78 e agli europei appunto dell'80. L'ultima esperienza in panchina è datata 95 alla guida del Paraguay, poi lascia per problemi di salute, viene colpito dal morbo di Alzheimer, piano piano si spegne dimenticando la straordinaria storia che è stata la sua vita. Scrive così di lui Gigi Garanzini nel Minuto di Silenzio. C'è un giocatore, anzi un fuoriclasse, che ha indossato le maglie di tre diverse nazionali. L'unico. Si chiamava Laszlo Kubala. Attraversò mezza Europa per arrivare a Barcellona, dove il suo ricordo è vivo quanto quello di Cruyff e sarà superato nel tempo soltanto da Messi. È sepolto a Barcellona, la sua terra promessa, dove fu cantato da Juan Manuel Serrat. La notizia della morte di Laszlo Kubala arriva il 17 maggio 2002 nel corso di una conferenza stampa di presentazione di Luis Van Gaal, che era appena stato nominato allenatore del Barcellona, e il club non rimane indifferente alla scomparsa di un suo simbolo. Ferma tutto quanto, nella sala cala il silenzio, un silenzio pieno di gratitudine per un uomo che ha fatto la storia del club, che è ricordato per la sua determinazione, che lo ha spinto a fuggire dal suo paese, a passare attraverso mille vicissitudini, a rischiare forte pur di realizzare il suo sogno, giocare a calcio. Per tutte le segnalazioni e le richieste sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.